La tecnologia non è mai neutra, figuriamoci il capitale. Il tecnodeterminismo è ancora la chiave dominante di qualsiasi analisi sulla presunta crisi della cultura. In principio fu la stampa a caratteri mobili. A partire dal Novecento lo sono stati la radio e il cinema. Poi è arrivata la televisione. Oggi, inesorabilmente, è la rete dove tutte queste tecnologie convergono. In tutti questi anni una sola cosa non è mai cambiata. Nel racconto degli intellettuali, la colpa del progressivo e presunto degrado del discorso pubblico e della crisi della cultura è sempre da imputarsi alla trasformazione tecnologica e al suo impatto sulla creazione, diffusione e fruizione dei contenuti. Passano gli anni, si tirano le somme di centinaia di dibattiti, eppure continua a sorprendere la ricorsività di ragionamenti già ampiamente superati in tutte le manifestazioni della deprecazione della rete che si sono sommate dalla sua apparizione fino a oggi. In un articolo di Alfonso Belardinelli pubblicato sul Foglio dello scorso 7 settembre, che vedete riprodotto, li ritroviamo tutti, dal danno umanistico prodotto attraverso la gamification ingegneristica della cultura, copyright Alessandro Baricco, all'eccessiva democraticità del dibattito, copyright Umberto Eco, dall'illusoria libertà dell'information overload, copyright Alvin Toffler, al gioco di una sfera pubblica obbligatoria per ciascuno di noi, copyright Alfred Durkheim, fino all'attacco finale alla vera e propria morte nera della cultura, che risiederebbe di fatto in una infrastruttura in cui non sia mai tutto è accessibile, anzi, peggio, tutto è connesso a tutto. Dice Belardinelli, è la vittoria di quella semplificazione tecnica che rende tutto più immediato, mediando l'accesso a qualunque contenuto informativo e comunicativo, ma occultando il fatto di essere una mediazione tecnica universale che scavalca e derealizza ogni realtà fisica e spazio-temporale. Una mediazione quasi invisibile, cioè magica, quasi miracolosa. Se da un lato la tecnologia non è mai neutra, non credo sia il caso di scomodare McLuhan, colpisce nel pezzo di Belardinelli non solo il trascurare il ruolo in questa deriva del modello economico scelto dall'industria dei contenuti, ma addirittura l'attaccare chi pone la questione al centro del problema, cioè Vanni Codeluppi, autore del libro I sette tradimenti del digitale, di cui l'articolo stesso dovrebbe essere una recensione. L'impressione che i lettori del Foglio dovrebbero trarne è che non è poi così necessario leggere il saggio di Codeluppi quanto, piuttosto, dare sfogo a ciò che nel cuore di ogni vero uomo di cultura sa già. E cioè che, purtroppo, la rete ha dato la parola a milioni di imbecilli, ancora copyright Umberto Eco, e che siamo quindi entrati ormai nell'era del dilettante, copyright Andrew Keen, e che internet non è la risposta, sempre Andrew Keen, anche se non ho mai capito esattamente la risposta a che cosa. Insomma, come si vede, quelli di Belardinelli sono argomenti già discussi e anche molto male invecchiati da quasi una ventina d'anni. Il punto è che se sorge il dubbio di non aver letto nemmeno il libro che si sta recensendo, figuriamoci dotarsi di quel minimo background che sarebbe necessario per evitare di sembrare davvero l'ultimo arrivato in un'arena, quella dei tecno-deterministi tranchant, già molto affollata, anche perché negli anni ha comprensibilmente garantito un largo sostegno di editori e media tradizionali. Peccato che nel frattempo questi stessi editori e media si stanno già rendendo conto che la corsa a intrattenere, a presidiare la nostra attenzione in canali sempre più chiusi è una corsa a perdere, come dimostrano i dati del primo semestre 2024 impietosamente pubblicati dall'Elio Simi nella sua newsletter Media Storm. Finché, in sostanza, ciò che si considera editoria, intermediazione umanistica, in definitiva cultura, non riuscirà a valorizzare qualcosa di diverso rispetto all'infotainment rosticciato di cui attualmente si nutre, sarà molto difficile convincere questi milioni di imbecilli a informarsi e acculturarsi altrove. E questo, temo, non è un problema della tecnologia, è un problema del capitale, dell'assenza di editori coraggiosi disposti a cercare altre forme di remunerazione che non siano lo spostare i nostri occhi e i nostri dati verso la pubblicità, premiando chi vince in questa sciagurata gara che non sarà mai ciò che eleva la coscienza morale, sociale e politica come vorrebbe Belardinelli. Non posso pretendere che questo accada subito, nel frattempo però si potrà riflettere qualche istante in più prima di far scrivere una recensione sulla transizione digitale al peraltro apprezzabilissimo in altri campi Belardinelli, il che sarebbe come chiedermi di scrivere un saggio di italianistica o una critica di Finnegan's Wake.